Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. L'Italia è un paese di legalità, l'Italia è un paese di illegalità, è un paese di mafia, è un paese di antimafia fatta con i fatti e non a parole. È un paese anche purtroppo di vittime di mafia innocenti, sono tantissime. L'Associazione Libera di Don Ciotti ha provato a contarle, siamo nell'ordine del migliaio in poco più di un secolo e mezzo di storia. Sono tanti quindi i volti, i nomi o le voci di persone che sono state uccise dalla mafia. Molti di questi purtroppo non vengono dimenticati o rimossi, ma di loro non rimane una memoria stabile, diciamo così, un sentire comune. E ben vengano dunque le iniziative che ricordano le persone che hanno lasciato la propria vita per difendere questioni di principi, di valori e di legalità. Tra questi il sindaco di Capaci in provincia di Palermo, tristemente noto e famoso per aver visto saltare per aria il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Ebbene, 33 anni fa Capaci aveva un sindaco, Gaetano Longo, che purtroppo fu ucciso dalla mafia. E in questi giorni, fu ucciso esattamente il 17 gennaio, in questi giorni la famiglia sta onorando la memoria di Gaetano Longo. E io do il buongiorno a Mariangela Longo. Buongiorno a voi. Mariangela Longo è figlia di Gaetano Longo. Chi era suo padre e soprattutto perché avete deciso, e noi siamo qui proprio per aiutarvi in questo, di tenere viva la memoria di vostro padre? Sì, mio padre Gaetano Longo è stato sindaco a Capaci per ben 14 anni consecutivi, dal 1962 al 1976, in un periodo difficile quando nel dopoguerra appunto bisognava un po' ricostruire tutto. E infatti diciamo che è un dato ormai assodato che tutte le strutture primarie che ancora oggi utilizziamo sono state opera sua. Ecco, perché fu ucciso suo padre a distanza di così tanti anni poi? Fu ucciso poi nel 78, quando in realtà lui era ancora consigliere comunale, era direttore provinciale, nel direttivo provinciale della DC di Palermo. Fu ucciso, è stato comunque anche questo confermato dalle istituzioni, da un'istruttoria che comunque poi con cui si è arrivati anche al riconoscimento da parte dello Stato di vittime innocenti, certo, della mafia. Quindi per la sua attività di amministratore, per la sua attività politica. Beh, ecco, io però sono incuriosito anche dalla vostra figura, ovviamente, perché i valori si trasmettono, no? È un come il DNA. Ecco, allora oggi Mariangela Longo come onora ogni giorno la memoria di suo padre? Allora, ogni giorno sicuramente, sin da quando appunto avevo 7 anni, il ricordo di mio padre è sempre vivo. Non certo né io né i miei fratelli abbiamo bisogno di commemorazioni per questo motivo, per tenere, certo, vivo in noi il ricordo, o anche mia madre sicuramente. Ma quello che ci ha indotto a pensare a questa giornata, che è di memoria ma anche di impegno, certo, visto che coinvolgiamo anche le istituzioni, perché vogliamo corresponsabilizzare un po' tutti, dai cittadini ai rappresentanti delle istituzioni amministrative, scolastiche e anche le forze dell'ordine, chiaramente, ma soprattutto una giornata destinata ai giovani, ai giovanissimi delle scuole. Ecco, è questo quello che volevo sentirmi dire, vale a dire l'impegno che vive nei più giovani, in coloro i quali poi dovranno un domani amministrare, governare territori, città, paesi, forse, come dire, anche essere chiamati a compiti più alti. Quindi la vostra è una testimonianza di legalità. Certo, la nostra è una testimonianza che facciamo ogni anno con i nostri interventi diretti nelle scuole per far conoscere la storia di un loro concittadino di cui sconoscevano l'esistenza. E a distanza di 30 anni di silenzio, di assordante, forse anche macchinoso silenzio, perché i suoi assassini sono ancora impuniti, chiaramente la rabbia ci ha portato anche a fare memoria, ma soprattutto per appunto responsabilizzare, far conoscere e responsabilizzare in maniera tale che questi ragazzi un giorno possano trarre anche da queste storie portate dalle nostre testimonianze dirette, possano trarre quei valori più importanti. Assolutamente, rabbia, formazione e speranza che noi condividiamo con lei. Non sarà la prima e l'ultima volta che sentiremo familiari di vittime innocenti della mafia. Ringrazio la dottoressa Mariangela Longo, figlia dell'allora sindaco di Capaci, ucciso dalla mafia appunto 33 anni fa, Gaetano Longo. Dico grazie in regia Carmelo Lauricella, in redazione Laura Fagin e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.